Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti sulle nostre frequenze. Questa è Blu Radio Veneto e questa è la trasmissione serale chiamata anche Blu Radio Sera. Buona serata da parte di Flavio Bilato e da chi mi accompagna in questa serata, Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Sto facendo come Bobo, mi tiro sulla camicia, hai visto? Bene, assolutamente sì, anche perché bisogna prevenire il caldo che ci sarà in questa serata, anche perché la saletta che ospita i nostri gruppi è sempre piccola, però voglio dire, nella saletta piccola ci stanno le cose grandi. E in questo caso diamo il benvenuto ai Lava Lava Love, che sono venuti a trovarci per presentarci il loro nuovo disco. Buonasera ragazzi. Ciao. E come avrete sentito, un bel gruppo, nutrito gruppo, per usare un termine diciamo che mette appetito. E quindi i Lava Lava Love, che vengono a trovarci da Verona per proporci questo loro nuovo lavoro che si intitola A Bunch of Love Songs and Zombies, un titolo lunghissimo, ma noi cominciamo dal capire il perché di questo nome così particolare. Intanto ho fatto buon viaggio per arrivare qui da noi. Buonissimo viaggio. Buonissimo viaggio, quindi siamo a posto. Sì, non ti senti più. Non è un problema. Non è un problema. No. Beh, il viaggio è andato bene e direi che possiamo anche concludere qui il capitolo viaggio da Verona a Padova. E invece per quanto riguarda il titolo del disco, diciamo che è stato un nome abbastanza casuale e che però come risultato è soddisfacente, nel senso che io ho sempre voluto chiamarlo A Bunch of Love Songs e basta, sì. E in quanto omaggio di Cohen A Bunch of Lonesome Heroes. E invece dopo, in fase di registrazione, abbiamo detto: ma perché non metterci gli zombie? Ecco. E mi ha detto: perché no? E quindi è rimasto A Bunch of Love Songs and Zombies, e quindi una canzone, un mucchio di canzoni d'amore e zombie, e che tra l'altro ha portato a grandissime discussioni e fiumi di parole da parte di recensori, dicendo sì, no, smontare e rimontare, parla, sì, hanno detto. Si parla dell'amore, della morte, il tutto petrarchesco, e invece in realtà era solo un nome casuale. Sentite dei sì, è Max che sta facendo ste robe. Perché Max si addormenta sempre quando io parlo, perché dice che parlo un po' troppo. Vabbè, insomma. Sì, il recensore ha scritto smontare e rimontare le parti dell'indie rock, perché praticamente Max, un po' un'autopsia, sì, quasi, no? Due componenti di questa band facevano parte dell'indie rock, o meglio, fa ancora parte dell'indie rock italiano, mm-hmm, al 100%. E questo smontare e rimontare, questo è è una band assolutamente nuova, che viene dall'indie rock Padovano, Veneto, possiamo dire questo. Però questo non vuol dire assolutamente niente. No, certo, più che altro speriamo che il risultato di questa band non sia un po' un Frankenstein, nel senso non sia parte di altri gruppi. Noi ci teniamo ad avere la nostra identità, sicuramente. Certo, è vero che ha preso una testata, poverino. Sì, ma il regista qualche volta deve anche prendere le testate. Cioè, il regista, sì, certo. Perché il regista deve rimettere a posto le cose. Purtroppo qualche volta capita. Certo. Sì, in questo caso ero io che ero finito sotto il banco, sì, per controllare il microfono. Ma sono tutti rumori di scena, era per sottolineare, sì, l'intensità del nostro lavoro. Fa parte del bench, fa parte del cespuglio che si crea intorno alla trasmissione. Esatto. Ok, quindi abbiamo dato la parola per prima a Flo dei Lava Lava Love, e poi avremo modo di sentire anche le voci degli altri protagonisti della serata. Ma io direi di riuscire a cominciare subito a proporre qualcosa di vostro, presentando un pezzo che avete scelto per far conoscere subito in principio la musica di Lava Lava Love. Quindi cosa ascoltiamo adesso? Dovremmo ascoltare, ha scelto Max la scaletta. Sì, la scaletta l'hai fatta te, Max. Sì, ma Max è senza voce in questo momento, allora, perché ha il microfono che non labiale. Funziona, e quindi non ricordo la prima pezza che ho messo in scaletta. Sì, ma lo ricordo io. Dai. Allora, Your Light. Ah, ecco. Eccolo qua. Perfetto. Oh, You are my life, you are my truth, you are my light. Through you the life, may I reach your Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato il primo pezzo di Lava Lava Love, il loro ultimo CD si intitola A Bunch of Love Songs and Zombies, questa era Your Light. Allora, questa canzone parlava d'amore o parlava di morte? Perché prima c'erano queste due supposizioni. Qual è la risposta esatta? Intanto ricordiamo che siamo con i Lava Lava Love e abbiamo dato voce anche a Massimo, che prima non si sentiva. Buonasera anche a te, Massimo. Buonasera. Bene, sei ritornato, Massimo. Sì, guarda, sei ritornato. Uno zombie che ritorna in questo caso, visto che parliamo del titolo. Allora, Your Light. Ne parla Pozzato, visto che io non ho idea. Vittorio. Massimo non è preparato, non sa nulla, risponde Vittorio. Sui testi Vittorio, io non so nulla, sui testi. E gli abbiamo messo a posto il microfono per far cosa. Per far niente. No, ma neanch'io ne so molto. Ma, sì. Ma secondo me l'unico informato su questo brano è Andrea Sbrogiò, il nostro batterista. Bene. Ciao a tutti. Buonasera Andrea. Buonasera. Informaci sul brano allora. Allora, praticamente Vittorio. Intanto, non so se avete capito, carissimi ascoltatori, qua c'è una serie di burloni che si chiamano Lava Lava Love. No, questa canzone è una canzone molto seria. Ecco, vedi? Perché Pozzato praticamente mi ha raccontato che una notte aveva mangiato troppi peperoni, mi ha sognato. Eccolo. E mi ha detto che però la sensazione che ha provato nel vedere la mia visione in sonno è stata come una luce, è stata come la Madonna. Sì. E quindi la mattina, quando si è svegliato, ha deciso di dedicarmi questa canzone. Quindi questa canzone è dedicata. Spegnete il microfono di Andrea subito. Grazie. Ha detto ben due parole vietate. Ha detto. Sì, veramente. Una è Pozzato e l'altra è Madonna. Non si possono dire queste cose. Sarà anche luce che un po', però. Scusate. Bene. Ora torna nel tuo angolo e parliamo noi. Bene. Diletta. No, bene, andiamo avanti. Sì, dai. La canzone in realtà il testo è di Vittorio, poi le correzioni sono successive, ma l'argomento un po' è sempre quello dell'amore, delle delusioni d'amore, eccetera. Questa è un po' una canzone abbastanza, diciamo, quasi onirica, no? Che cosa ho detto io, Flo? Hai parlato di peperoni, Andrea. Però sì, di un sogno. Ho parlato di un sogno, ho parlato di amore. Sì, allora aveva ragione Andrea. Ha parlato Andrea. Di un peper sogno. Passiamo alla prossima domanda. No, cioè praticamente... Io ho letto le critiche discografiche, sono state decisamente positive di questo disco. E il protagonista è l'amore, al 90%. Esatto, questo è il discorso. E musicalmente questo pezzo è abbastanza tirato, una bella chitarra, una bella elettrica, che la suona tuo fratello. Esatto, la solo di chitarra. Vieni vicino al microfono. Sì, la solo di chitarra è stato suonato in studio da mio fratello Mattias, che tra l'altro saluto, spero mi stia ascoltando, almeno lui. Ciao Mattias. Ciao Mattias. E quindi insomma con la sua SG, quindi insomma un bel suono potente. Ciao Gibson, pubblicità. No, ma SG è tipo, la chiama lui la chitarra così, in realtà è un'altra super marca. Giovane. Esatto, è super giovane. E quindi un pezzo abbastanza tirato, infatti tra l'altro l'abbiamo scelto come prossimo singolo e il video è prossima uscita. Dopo ve lo faccio vedere. Esatto, noi ce l'abbiamo già in anteprima, quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. E il che insomma ci dà un po' l'immagine di gruppo abbastanza comunque carico, non un gruppo noioso che piange un po' se stesso, no? No, che, assolutamente. Che non siete per niente noiosi, musicalmente siamo abbastanza vivaci, assolutamente no, vivaci, decisamente. No, infatti c'è un po' il contrasto appunto, sì, con questi testi che ogni tanto sono malinconici, sì, o comunque ricordano momenti non, diciamo, non piacevoli della vita sentimentale, del rapporto di coppia, esatto, le litigate in tour, tutte queste cose, domani le canzoni sono che io precedenti al tour, conosciamo molto bene, insomma, perché è molto bello, cioè una cosa che ci teniamo a dire io ed Andrea, è molto bello suonare in una band con una coppia, io e Andrea, esatto, coppia di fatto e noi siamo aperti a tante cose, siamo aperti a tutto, sì. Bene, mi hai tolto proprio le parole di bocca, Flo, quindi con benissimo, questo siamo aperti a tutti, a tutto, a e tutto, possiamo anche andare avanti, direi. Beh. Certo, allora, Lava Lava Love, voi non siete arrivati, no, anzi, siete arrivati con i vostri strumenti musicali, allora direi che potremmo far ascoltare anche un qualcosa dal vivo ai nostri ascoltatori, quindi da dove cominciamo? Cominciamo dall'inizio del disco. Sì. Facciamo Another Happy Song. Mm-hmm. L'ho pronunciata bene, Flo? Another Happy Song. Another Molto happy. Bene. Another sì, happy sì, song. Molto bene. Pronuncia del Kentucky. Esatto. No, in realtà è più London Town. Però London Town, ma anche un po' Kentucky, secondo va bene, me. Va bene. Sì, va bene. Allora, Love, Love, Love con questa Another Happy Song tratto dal loro ultimo lavoro. Ricordo ancora una volta il titolo, lunghissimo da appuntarsi finemente per poi ricercarlo su internet oppure nella distribuzione, ma ne parleremo più tardi. A Bunch of Love Song. Songs of and Zombies, quindi Another Happy Song. Lava Lava Love. I never change, I never radically change, I only have a few more scars, only have a few more wounds. Useless stories to tell, just fill my head with crap. When everywhere I try to make my best everywhere, just to get more money, to get more, just to get more from this world, to get some love from this world. I thought that I could feel better, I thought I could have changed. The weight of my mistakes pushes me into the ground, and all the time passes me by, makes my heart shrink, and everything is meaningless, and more and more and more and more. I had to start all over, a brand new wage, a brand new lover, brand new fuck. All the memories fade, and all the rooms are empty again. I thought that I could feel better, thought I could have changed. The weight of my mistakes pushes me into the ground, and all the time passes me by and makes my heart shiver, and everything is meaningless, and more and more and more and more. I could have changed. The weight of my mistakes pushes me into the ground, and all the time that passes me by makes my heart shiver, and everything is meaningless, and more and more and more and more and more. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Devo dire che il bravo pozzato finale non era inserito nel disco, ma è stata un'aggiunta di Massimo alla chitarra. Massimo Vittorio, però ci stava bene. Sì, certo, giusto. Ci stava bene, è per questo che l'abbiamo registrato, è per questo che poi lo proporremo anche agli ascoltatori. Mi all'interno son perso qualcosa del nostro sito internet. Sì, guardati intorno, Massimo. Ecco, ok. E all'interno del nostro sito internet, quindi bluradioveneto.it, all'interno della pagina riservata ai Lava Lava Love, troverete tra qualche giorno anche le foto che scatteremo all'interno di questa serata e anche la registrazione dei pezzi, compreso il bravo pozzato. Esattamente, poi ha fatto un rumore, una sì, percussione con la valigia. Me la ripeti un secondo? Allora, fa più o meno così. Perfetto, va benissimo, sì, ottimo, decisamente ottimo. Andava bene perché un critico ha scritto, a proposito di questo pezzo, dalle rotondità semiacustica. Questa è una rotondità assolutamente acustica stasera, sì, decisamente. Acustica di così impossibile. Esattamente, ma è molto indovinata e molto, possiamo dire, anche un po' alleggia alla California, un po' alla West Coastiana, a mio parere. Non so, bisogna dover chiedere a Sbro. Vabbè. Però avendogli tolto la parola. Ti senti californiano? Praticamente pozzato ha mangiato. No, dai. No, ma no. Ti senti un po' californiano, quella sì, mia valigetta del dopoguerra? Un po' on the sì, road. Più con questo. Beh, con questo. So sì, bene. È un peperone di quelli un che ha peperone. Peperone sì, sì, ma gli spettatori, gli ascoltatori non lo vedono. Ma vedranno le foto. Lo vedranno. Ah, okay. Esattamente. Foto. Comunque, vabbè. Stiamo parlando a proposito di Andrea che sta suonando la valigia, non una percussione tradizionale, ma una valigia semivuota stile 24 ore, e in più un diciamo un sonaglio che è un peperone tutto bello rosso e con quei semini dentro, ecco qua. Bene, allora noi abbiamo ascoltato questa Another Happy Song, che a quanto pare è una canzone anche all'insegna della felicità, dal nome si direbbe così, no, o sì, si nasconde qualcosa sotto, visto che no, abbiamo parlato purtroppo, di zombie. Purtroppo dietro ogni pezzo si nasconde uno zombie. Un disagio anche. Un grosso disagio, infatti, quindi anche questa non è molto happy se dopo uno va a leggersi il testo. Esatto. No, anche perché ascoltandolo così sembra molto happy in realtà. È vero. solo leggendo il testo ti accorgi che non è happy. Sì, effettivamente. È vero. Però beh, cioè, noi quando le suoniamo facciamo una catarsi, quindi noi alla fine diventiamo happy pur cantando cose tristi. Un po' come nel senso del dialetto, catarsi, esatto, ci troviamo. Ci troviamo, capito, esatto. No? Okay. Un po' come Robert Smith, esatto, che si trova. Si trova, vabbè. L'idea di fare questo pezzo come l'avete avuta? Come avete trovato? Ci siamo catati? Sì, esatto. Musicalmente come l'avete impostata praticamente all'inizio? Qua era solo chitarra e voce e poi avete sviluppata maggiormente, sì, l'avete allargata. Erano solo delle bozze scritte un po' male anche. E poi ci siamo trovati in studio il banjo di Luca Valentini, questo pezzo qua su disco. Certo. E anche la chitarra. E anche la chitarra e anche l'assolo di chitarra. E anche la batteria, tra l'altro. E anche la batteria, tutto, è vero. Anche le voci. No, peccato che poi non ci sia mai, però. C'era nel disco praticamente. Sì, quello è importante. Disco, era il primo, diciamo, il batterista con cui abbiamo cominciato. Cioè, perché dobbiamo dire che ci sono stati tre batteristi nella nostra band. Praticamente, esatto. Sì, il primissimo, che è stato Matteo Cantaluppi, che poi ha prodotto anche. Dato al produttore, praticamente. Il primo EP, esatto. Poi, durante la registrazione del disco e le prime date del tour, abbiamo avuto appunto Luca Valentini, che adesso suona negli House of All, sempre con Vittorio, però fa bluegrass, quindi tutt'altro genere. E adesso abbiamo Andrea, purtroppo per fortuna non lo sappiamo ancora, ma abbiamo Andrea come batterista. A me piace perché ha l'orecchino. Ah, allora, quindi, anche a me. Adesso è coperto dalla cuffia. Non ah, si no, vede. Non ce l'ha più, però ah, ha il no, buco. Ha il però buco. È bello da dire, no? E ci stiamo trovando molto bene, anche in fase live. Lui proviene comunque da un programma jazz, quindi apporta anche il suo contributo jazz in quello che è poi un mondo pop rock. Quindi e cosa vuol dire porta il suo contributo jazz? Bene, il suo contributo jazz è cambiare le parti di batteria a ogni concerto e quindi disorientarci ogni volta. Quindi già, per noi è abbastanza strano. No, ci poi questi suona in modo abbastanza, diciamo, delicato, però incisivo, tipico del jazz. con delle sonorità particolari, secondo me. Quindi a me piace molto come batterista, perché ha portato appunto quello che è una sonorità un po' più particolare in una che è un genere abbastanza tradizionale, quello del pop. Sì, no? Quindi si delinea proprio il vostro suono adesso con Andrea. Anzi, addirittura io consiglio a chi compra il disco e a chi piace il nostro disco di venire a sentirci, non tanto per una questione, diciamo, personale, ma proprio perché si sente la differenza e l'evoluzione del gruppo che ha portato Andrea nel... E poi è molto più bello. E poi è più bello. Ah, bene. Quindi decisamente piace alle ragazzine, sì? Perché è giovane, è carino. Rilascia è facilmente gli autografi. Sì. È mica solo quelli. E anche i numeri di telefono, esatto, del posto concerto. Comunque, Flo, guarda che abbiamo la stessa età io e te. Però. Ma io sembro più vecchio. Sembra tua madre, però lei. Ma perché io sono vecchia dentro. E poi frequento vecchi. E tu, Sbro, sei giovane fuori, purtroppo. Quindi okay, vabbè, c'è uno scambio continuo di complimenti tra, sì, ma ci tra vogliamo Lava Lava Love, la sessione ritmica. Ma perché nel gruppo unito, voglio dire, ci vogliono anche questi screzi divertenti, tanto per mettere un po' di pepe all'interno di quella che è la vostra programmazione musicale. Comunque, si diceva nella vostra presentazione che questo Matteo Cantaluppi, che era stato citato prima, ha avuto una richiesta di asilo politico, si può dire, da due di voi che erano Canadians prima. Sì. Lui in realtà ha dato asilo fisico a noi, nel senso che ci ha fatti dormire a casa sua quando abbiamo registrato. Però io e Vittorio, quando abbiamo registrato i primissimi pezzi, ci siamo fatti ospitare spiritualmente, fisicamente e musicalmente anche da Matteo, esatto, Cantaluppi al Mono Studio di Milano. Abbiamo registrato questi 2-3 pezzi, poi ne abbiamo registrati altri due con Florenzi e Oliviero, poi una cosa tira l'altra e Oliviero che non c'è, non è un personaggio, esatto, immaginario, è il quinto componente del gruppo, esatto, però purtroppo non c'è mai, esatto. Diciamo che 9 concerti su 10 purtroppo lui ha una vita, è sposato, tiene famiglia e quindi abbiamo, diciamo, speso di più a fare il suo cartonato da portarci, sì, ai concerti, esatto, grandezza naturale, esatto. Quindi sono il piano, il synth, il basso, la chitarra, lui. Il cartonato. Il cartonato. Sì. Sì, tanto per indicare quello c'è che costato si trova... tanto per quello. Sì, perché suona. Quindi no, è stato un po' da... Poi è un ottimo musicista, con Vittorio suonava nei Fake P, che... Ah sì, proprio che... dobbiamo dire che voi siete, avete fatto... siete stati protagonisti di altre band parallele, possiamo dire. Perpendicolari, parallele a queste. E da quel, dall'idea di queste band è nata l'idea di questo, di questa evoluzione. No, musicale. Infatti alcuni pezzi, tra l'altro, c'è uno in particolare che non mi ricordo. Tomorrow era scritto nell'ultimo periodo dei Fake P. Ecco, vedi. E poi non si è mai potuto realizzare. C'è addirittura un video su YouTube, se non sbaglio, dove ci sono i primi abbozzi di Tomorrow, credo. Quindi... Quello con Gesù Verde, no? Sì, quello è un altro. E poi... c'è un altro paio di pezzi comunque che erano nell'ultimo periodo Fake Peak. Tra l'altro... Li avete leggermente modificati? Sì. Abbiamo dato un timbro più pesante. No, anche perché i Fake Peak sappiamo suonare tutti, invece nei Lava Lava Lava c'è qualcuno che non sa suonare. Ah, quello è il motivo. Tipo Fiorenzia, non sa suonare nulla. Rasentiamo il punk a questo punto. Allora. Sì, io sono molto punk effettivamente come personaggio. Sì, mi sento punk, devo dire. Sì. Quindi... mio fratello sarà contento, tra l'altro, che io dica che sono punk. Vai. Benissimo. Ma magari è tutto fratello, no? Sì. No, starà guardando i Babbo a papà. Sì, sicuro. Così, Carosello. Carosello. Ti scrivo. Allora, questo Tomorrow che si citava prima ha in realtà un titolo ben più lungo. Sì. Lo sappiamo, però. Dai, Vito, dillo tu che Tomorrow pronuncia. Will be the worst day of my life. Cioè, domani sarà il peggior giorno della mia vita. E anche qui un titolo molto allegro. Sì, veramente. In compenso il pezzo è molto allegro, compenso, poi quando, esatto, lo ascolti. No, il pezzo è altrettanto pesante, sul triste, sì. Però è una tristezza... Sai quando uno è triste ma si crogiola nel suo essere triste, no? È felice, sì, di questa cosa. Poi tutti gli scrittori maledetti, figuriamoci, da qui c'è una storia sulla tristezza che porta allo sviluppo dell'arte. E quindi, secondo me, tra l'altro Tomorrow è il mio pezzo preferito nel disco, quello che ha reso meglio forse. Questa coda, anche questo strumentale molto lungo, è un po' il risultato di tutte le esperienze precedenti loro sanno suonare molto bene, tra l'altro, quindi io sono felice di suonare con loro e di poter contribuire. Nel frattempo loro stanno mangiando, non sanno che cosa io stia dicendo. ma non importa. E, beh, ma torniamo tra 5 minuti, Flo, vai. Ah, tu vai, io intanto parlo tranquillamente. No, stavi parlando dell'evoluzione di questo pezzo che ami particolarmente. Sì, sì, sì, mi piace molto anche perché ha un po' di reminiscenze di un rock melodico 70-80 che a me piace particolarmente, quindi io ci trovo anche un po' di Led Zeppelin. Ma le diverse anime della band si sono messe d'accordo per fare un pezzo simile? Ma io credo che sia un po' casuale, non credo ci sia una scelta a tavolino, facciamo così, facciamo quella. La solo, per esempio, la solo credo sia stato un primo lì sul mondo, è stato una solo, diciamo, creato al momento da te. No, un'idea di Valentini invece. Ah, di Valentini. Un'idea di Luca, okay. Anche quello. E quindi era già arrangiamento Fake P in origine. Mm-hmm. Ok. E poi l'ha sviluppato, l'ha allargato, sì, secondo le tendenze vostre, di questa, esatto, della band di adesso. Ha dato alla fine un colore unico al disco, che è molto chitarristico. Cioè, indubbiamente un disco chitarristico, sì. Però allora, ha delle melodie, quello è importante. Sì, sì, sì. Decisamente, sì, sì. Un po' di traverso qualche volta, no, ma sempre melodico. Dopo, se avessimo avuto una settimana in più di studio, avremmo fatto anche gli altri strumenti, ecco. Beh, siamo, esatto, un po' fermati sulle chitarre. Vabbè, disco. Sarà un tema da affrontare per il prossimo CD, perché mi auguro che ce ne sia già uno anche in lavorazione. Madonna. Pezzi nuovi ne abbiamo a Iosa. Sì, sì, sì, sì. Abbiamo già un secondo disco pronto, volendo. Praticamente. Dobbiamo solo metterci giù e registrarlo. E ci servono i soldi. Esatto. Quello all'ascolto, se volete versarci dei soldi su PayPal, il nostro account è lavalavalove@gmail.com. Versate pure quello che volete, noi faremo il disco nuovo appena avremo 3.000 oppure euro. Se volete l'IBAN di Vittorio è AB, no scherzo, però ci stava, poteva essere IBAN. Ecco. Beh, allora vado a casa, ciao. Sì, sì, ciao Flo, è stato un piacere stare con te. Allora, Lava Love, sì. Ricordiamo che stiamo conversando piacevolmente con loro, visto che hanno fatto un nuovo disco, un titolo lunghissimo, A Bunch of Love Songs and Zombies, e adesso andiamo ad ascoltarci un altro pezzo, ovvero la traccia numero 2, che si intitola Dry Tongue Lies, e poi torniamo in studio per commentarla insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora insieme. Oggi è sempre martedì 8 novembre del 2011. Questa è Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale chiamata Blu Radio Sera. Ancora buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Insieme a noi ci sono i Love Love Love, un gruppo che arriva da Verona per presentarci questo loro ultimo lavoro, A Bunch of Love Songs and Zombies. Ci siamo ascoltati la traccia numero 2, Dry Tongue Lies, e vorremmo sapere dai ragazzi di cosa si parla in questa canzone. Dai, amore? Ragazzi, Flo, quindi parla uno di noi tre adesso. No, ragazzi, nel senso... L'hanno esclusa immediatamente, Flavio, hai visto che roba? No, è incredibile. Non vedevano l'ora. Incredibile. Sono così riservata, non capisco perché non mi facciate parlare. No, ma adesso ho capito perché i Beatles erano in quattro maschi. E perché Yoko ha fatto sciogliere. Sei sicuro? Attenzione, siamo sicuro fossero quattro maschi. La Flo è il nostro Paul McCartney. Perché Paul McCartney poi è morto nel 66, dicono. Dicono. E poi hanno preso la Flo. Beh, io lo vado a vedere il mese prossimo. Anch'io. No, è Billy questo mese. Che vai a vedere. Dove lo vai a vedere? Bologna? Vado a vedere Bologna. A Milano vai a vederlo. Vado a vedere Milano? Sì. Eh sì. Ah sì, il giorno del secondo giorno. Esatto. È il secondo giorno, perfetto. Ritorniamo a voi. Sì. No, a Paul, abbiamo fatto un po' di pubblicità a Paul McCartney. Esatto, ne non lo credo. Bisogno, sì, appunto. Ok, parliamo un momento di questo pezzo energico, dai. Ah, questo, beh, Dayton Lies fa parte dell'ultima scrittura dei pezzi. Uno degli ultimi, cioè un esatto, pezzo recente. Esatto, quelli più recenti, quindi risale al periodo post già Fake P, sì, post Canadian. Sì, voi praticamente. Non niente di particolare da dire, la batteria è di Cantalupi, il testo parla delle menzogne che ci raccontiamo soprattutto noi stessi, spesso e volentieri e inconsapevolmente soprattutto. E questa energia proprio totale nel pezzo, questa voce quasi urlata che qualcuno ha scritto giustamente. Questo disco qua mi andava di cantare così un po' più urlato, sì. No, no, anche un po' tutto il disco, sì, un po' esagerato forse. Un po' Foo Fighter praticamente. Sì, sì, leggermente. Sì, sì. Forse un po' esagerato, il prossimo disco magari può fare... molto bello. No, ma non so perché è esagerato, in quel momento là andava così. Sì, sì, sì, sì, sicuramente, in quel momento in cui abbiamo registrato mi andava di farlo un po' più urlato. Il produttore cosa ti ha dato su questo pezzo? Ti ha dato una spinta notevole oppure ha lasciato che le cose andassero in quel maniera e poi ha messo a posto le cose alla fine? Ma c'è, cioè, il produttore, alla fine eravamo noi produttori artistici. C'era il fonico Federico Grella, che ha fatto un bellissimo lavoro. Sì, della Dirty Sound Studio. E lui mi incitava, diceva: sì, sì, va bene, bevi un grappino così vai, ti viene anche la voce più. Sì, anche perché lui parla hardcore. Alza il volume. Sì, lui sì, più sì. Sicuro. Anzi, forse la mia voce non gli piaceva neanche particolarmente. Perché infatti era diceva anche a te: bevi un grappino. Sì, sì, mi diceva: bevi un grappino anche tu, così, no? Così dai più spinta al discorso. Esatto. Esatto. E quindi abbiamo capito che la musica dei Love Love Love è nata tra un grappino e un bardolino, ecco, e un valpo, sì. E anche un'altra cosa che sì? Niente, sì, sì. No, no, andiamo avanti, diciamo, bianco di costoso, proseguiamo. No, la curiosità è che durante i set live Dayton Lies viene suonata nella solo con lo stilofono, cioè questo strumento qui, sì, che esatto, è uno strumento un po', diciamo, il meccanismo è quello dell'allegro chirurgo, no? Quindi questa lastra metallica che, seconda di dove viene suonata, fa una nota diversa. Uno strumento che mi ha regalato Vittorio, non conoscevo ovviamente. Non conoscevi Vittorio? Non conoscevo né Vittorio né lo stilofono. Tastierista dei Canadians lui, è vero. È abbastanza famoso. Ah, okay. E quindi è simpatico vedere anche l'utilizzo di altri strumenti. Quindi è tipo un Glockenspiel. Vedrete nelle foto dopo su Facebook, insomma, sì, tanto sì, lo faccio vedere qui in studio. Sì, sì. È uno strumento plastica e metallo, a questo si chiama stilofono non perché fa stile, anche se in realtà fa anche stile, ma perché ha questo stilo e quindi suonando, magari al microfono sentiamo, si sente, sì, sì, vai, vai. Suono molto piacevole. Sì, sentiamo. La solo fa praticamente così, e detto così sembra molto fastidioso. Non fa esattamente no, così. No, no, no, non fa solo proprio così perché è scordato. Bello, bello. Ma... Perché non hanno avuto a disposizione anche i Kraftwerk, questo me lo domando. Ma secondo me l'hanno usato, sì, c'è un video, c'è un video dove lo usano. Comunque lo usa live anche Bob Dylan, io non, ah, sì? Perciò sì, sì, lo usa live Dylan e quindi lo usa live stasera. Mi senti un po' Bob Dylan. Sì, Flavio ti chiede se lo usi stasera. Beh, lo abbiamo, cioè, l'ha appena usato Dayton Lies, ah, sì, quindi sì, sì, purtroppo non posso usarlo, è un peccato, perché un peccato, lo suono molto bene. Ah, però, no, però oggi no, più che altro perché è scordato e ci metto una vita ad accordarlo, quindi meglio di no. Però se venite a sentirci live, viene usato spesso nei live, cioè oltre a questo pezzo canzoni, che abbiamo detto, un paio di canzoni. Sì, sì. Ma allora ricordiamo quelli che sono i live prossimi venturi, visto che parliamo di live. Sì, allora 17 novembre al Jack the Ripper di Roncà in provincia di Verona. 25 novembre a Genova al Milk, se, se sarà possibile, insomma, farlo, sì, per certo. I problemi che ci sono stati. Poi abbiamo tre date a inizio dicembre, 9, 10, 11 a Firenze, 9 a Treviso, esatto. 10 a Firenze, 11 a Ferrara, e poi basta, perché tanto la gente non se li sta segnando, quindi non se li ricorderà mai. No, sul comunque... nostro sito sì? lavalavalove.tumblr.com c'è la sezione tour, e quindi ci sono tutte le date aggiornate, ne abbiamo fino ad aprile, ho visto oggi, quindi sì. Bene, fantastico. Bene. Quindi la band sarà completamente, tutti e cinque quel giorno, fate dal vivo oppure no? Beh, Jack the Ripper sì, in Jack the Ripper saremo in 5. Diciamo che un concerto ogni 10 viene anche Oliviero, perché per contratto deve essere presente. Sarebbe il famoso cartonato di prima. Sì, esatto, sì, sì, sì, quello in carne ed ossa. È la versione in carne ed ossa del cartonato. No, si potrebbe chiamare cartone animato, visto che è un cartone. Esatto, quando viene lui lo è così. E credo che verrà il Jack the Ripper a Treviso, da Zuni. Viene nei posti dove gli piace, insomma. Sa che c'è, si mangia bene. Esatto, lo nasconde dicendo date limitrofe, ma in realtà è solo dove gli piace. Così. Fa bene. Va bene, certo. Anch'io. Benissimo, allora, visto che abbiamo ricordato i vostri prossimi appuntamenti live e anche abbiamo salutato questo Oliviero che c'è e non c'è, allora c'è, un altro c'è. È fra noi. Aleggia lo spirito fra noi. Benissimo, allora un altro pezzo live, Lava Lava Love, cosa c'è che bolle da quelle deciso parti? Che faremo An Invitation. Molto bene, ci sto. Sono le sedie che fanno tutto questo piacevole rumore, no? Sì, fa parte del rumore. È una percussione di Andrea. Vai. Sì, esatto, così. Please, please stop talking about your problems, all the stuff. If I were you, I'd keep myself in a lawnmower. Please, please forgive me, was just a joke. Just a joke. Don't really care, don't really care about your stupid selfish ego. Now it's time to put that rope around your neck. Now it's time to shut that fuck up. Just stop talking shit. Now wonder how the world is gonna be without you. Beauty and silence. Just a joke. Don't really care. Don't really care about your stupid selfish ego. Now it's time to put that rope around your neck. Now it's time to shut that fuck up. Just stop talking shit. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, Lava Lava Love con questo pezzo che si intitola An Invitation, sempre tratto dall'ultimo lavoro che stiamo presentando in questa serata, A Bunch of Love Songs and Zombies si intitola. E tra le altre cose, An Invitation era un pezzo anche racchiuso all'interno della della compilation di Rock It, la numero 31, c'era anche il vostro pezzo, quindi diciamo un grande onore partecipare all'interno di questa compilation. Un grande onore per Rock It avere un nostro pezzo, diciamo. Certo, certo. Quello è il grande onore. L'avrei detto... c'è un po' di maretta tra... No, perché? No, No. Mi era parso. Cioè, noi siamo contenti di avergli dato un pezzo. Io vado sempre su Rock It, quindi... ogni giorno. Sul forum di Rock It. Sì. E quindi voglio dire, è un onore per lui e un onore anche, anche per noi. Ci mancherebbe un do, ut, des. Quindi abbiamo citato anche latino, quindi sono preparatissimi i ragazzi. Decisamente, sono molto preparati. Siamo passati dall'italiano al dialetto puramente veneto al ma perché in quanto extracomunitaria, no? Ci tengo a far vedere, a dimostrare la mia appartenenza alla comunità veneto-padana. È l'unica laureata della band, a parte il cartonato che abbiamo lasciato a casa. Qual è la tua origine ufficiale, Flo? Vabbè, io sono nata in Argentina. No, quella ufficiale, ha detto Flo. Quella ufficiale? Ah, beh, vabbè, insomma, è meglio di non dirlo. No, sono italo-argentina, quindi ho doppia cittadinanza. E tutti i critici hanno messo in evidenza l'interazione di voce fra Vittorio e te, Flo, praticamente, che dà proprio la costruzione, che dà la base, la solidità alla band. Sì, è interessante più che altro perché la costruzione si crea grazie a un contrasto, no? Quella, la voce mia, forse più squillante, quasi infantile in certi punti, e con la sua che è più ruvida, più graffiante. Quindi secondo me è un contrasto che ben sta. Si addice ai pezzi, praticamente. Sì, senz'altro. E non abbiamo avuto grande difficoltà. Io più che altro, essendo sua fan, prima di tutto, quindi già Canadians. Quindi già lo conoscevi, quindi io già cantavo sopra le canzoni dei Fifi e Canadians, quindi per me era facilissimo poter stare dietro a Vittorio. La cosa importante, secondo me, è stato il risultato, è fatto in modo che nessuna delle due voci sia arrivata a sopraffare l'altra, no? Quindi era proprio un'amalgama molto... Avete i due spazi. Sì, esattamente. Assolutamente distinti. Sia per quanto interagite, riguarda... ma... Sì, sia per quanto riguarda le seconde voci, che le voci principali, un'interazione, poi un intrecciarsi, no, delle voci, più che avere due voci parallele, sì, che fanno a gara tra di loro, tra virgolette. Perciò dal punto di vista vocale io sono soddisfatta. Certo, avessimo avuto più tempo, come ha detto prima Vittorio, magari il risultato sarebbe stato migliore, però già così io non sono contenta di quello che ho potuto fare, e la voce di Vittorio mi piace, ha cantato bene, prego. Ha cantato siete. Bene, e quindi una parvenza di professionalità. Dobbiamo sottolineare che adesso questa abbiamo una versione acustica praticamente stasera. Sì. Però nel disco non è prettamente una versione acustica, il disco è corposo, sì, c'è certi pezzi incisivi. Abbastanza incisivi. Quindi sì, è bello così, perché la dimensione acustica parte sempre dalla dimensione acustica per fare un pezzo rock, secondo me. Sì, anche sempre perché le voci chitarre. La maggior parte, anzi penso tutti i pezzi che Vittorio ha portato in sala di incisione sono tutti chitarra-voce. Certo. Anzi, tra l'altro, chicca, sono custoditi in un sito che è rejectedsongs.bandcamp.com, che sono le canzoni, sia quelle tagliate, sia quelle effettivamente finite nel disco, solamente chitarra e voce di Vittorio, registrate col cellulare, credo. Sì, probabilmente col cellulare o con altri. E quindi se volete... Quindi, non è un po' una qualità, cercavi di prendere l'idea immediatamente per non scordarti. Sì, esatto. Sì, è andata così. Esattamente. Stando attento che qualcuno non le pigli e le faccia proprie. Perché ma semmai ho degli avvocati. Sì. Tranquillo. Allora sei a posto. Sei a posto. La cosa divertente è che sentendo questi pezzi, che sono proprio chitarra e voce solamente, molto comunque soft, diciamo, poi rivederli, risentirli sul disco in versione completamente diversa, stravolta, riarrangiata, fa un po' specie, insomma. Quindi, no? Quindi però... ricordiamo ancora una volta dove si possono trovare queste tracce. Si ascoltano su Rejected Songs, quindi canzoni rifiutate, diciamo, esatto, così, punto bandcamp.com. E dopo, se volete anche mollargli un eurino al povero Vittorio, lì c'è la possibilità. No, glielo do io, subito adesso. Daglielo tu. Se volete darmelo a mano, facciamo finta che Marco da Padova voglia lasciarti un euro. Ciao Marco. Ciao Marco da Padova. Marco. E adesso avrai un euro da parte sua. Wow, okay. Grazie Marco. Bene. Benissimo, allora prima di andare in euro cerchiamo di continuare l'intervista. Prima di dare un euro? Sì, e allora si voleva parlare anche di quello che era il Trouble Festival di Monza, dove vi siete trovati così per caso per farvi conoscere. Come vi siete addentrati in questa esperienza? Ma ci siamo addentrati così, appena mi è arrivato il comunicato stampa che mi diceva che c'erano gli Ash che suonavano, io ho scritto su Twitter dicendo a chi devo rompere le palle per suonare a questo festival. Mi hanno mandato un po' di contatti, io ho rotto le palle e siamo stati gentilmente invitati a suonare con gli Ash. Gentilmente. Gentilmente, sono stati gentilissimi, anzi li ringrazio anche adesso. Sì. Però è da allora che stiamo aspettando il bootleg di quel concerto. È vero, cogliamo l'occasione per chiedere a gran voce. Ma gliel'ho chiesta tante volte. Arriverà prima. Secondo me arriva per Natale, giusto per le festività. Speriamo. Che farà sicuramente concorrenza a quello di Amy Winehouse che sta uscendo. Sì, ma non è un bootleg, sì, quello, ma è un disco ufficiale. No, a parte noi siamo vivi comunque. Quindi sì, sì. Ma quello è un disco ufficiale. È un po' una battuta perché il nostro è un live. Ah, ok. Ah, che bello, bello, bello. Posso andare per la seconda volta a casa. Fantastico. Quindi anche la comicità dei Lava Lava Love, ma da colorato, dirompente, mi viene proprio l'aggettivo dirompente per definire la nostra comicità. Benissimo, tra altre cose, anche si vedeva che siete anche dei fans di Elio e le Storie Tese, no? Ah, io tantissimo. Pensavo sono... per le mie sopracciglia. Sì, anche. Ci assomigli però, francamente. Io personalmente sono fan di Elio e le Storie Tese da quando... 14 anni, quindi l'anno scorso, no, una decina di anni fa circa, li ho seguiti in tutti i tour, sono veramente una fan accanita e nel mio modo di, cioè nel mio umorismo, il modo di pormi si sente, credo, questa reminiscenza, l'influenza. Mi spiace non poter, diciamo, apportarla nei testi, perché comunque siamo un gruppo serio su Via, sì. Però insomma, sento, credo che sia presente sicuramente. Tu hai citato Elio, vai Flavio. Sì, certo, no, volevo dire che proprio dove è seduta adesso Flo, era seduta Paola Folli. Oh, che meraviglia, che onore. Che adesso canta con Elio e le Storie Tese, è parte integrante ormai, no? Quindi, sì, parlando di Elio e le Storie Tese, dobbiamo dire che Elio e le Storie Tese dal punto di vista musicale sono dei mostri praticamente, musicisti straordinari, i zappiani italiani, qualcuno li ha definiti assolutamente, sono dei mostri. E tra l'altro credo che purtroppo questa, diciamo, il loro tipo di comicità è stato sempre un'arma a doppio taglio, sì, nel certo. senso che molte volte sono stati denigrati proprio per il tipo di testi, perché sono quelle con le parolacce, quando invece tutt'altro, e hanno un uso dell'italiano, un uso della ritmica, della metrica pazzesco, e io sono, si sente che sono fan, vero? Sì, molto, molto, sì. Ma neanche tanto. E dal punto di vista musicale appunto sono dei mostri, non mi sento neanche di paragonarmi lontanamente a quello, alla loro carriera, a quello che loro fanno, quindi insomma. Quindi se troviamo qualche capello sopra il tavolo è perché te li stai strappando. Assolutamente, li sto perdendo benissimo. A manciate. Ok, allora ascoltiamo ancora qualcosa del vostro disco, e quindi dunque, se non sbaglio, c'è di mezzo la traccia numero 6, quindi sei. Quella che dice okay. Last Night. E quindi ce l'ascoltiamo e poi torniamo qua, e se c'è da dire qualcosa anche su questa traccia ci penso in Florencia. Benissimo. Blu Radio Sera. Suitcase, a walk along the grey lines of a railway station. I feel like something inside me is defeating the laws of human nature. I'm not crying, just trying to rehydrate my eyes. The air is cold and dry. Carry my suitcase and walking through the grey lines inside. Gray lines inside and can't see. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Una volta salutiamo i nostri ascoltatori ancora all'interno di Blu Radio Sera, programmazione serale di Blu Radio Veneto. Sono con noi Lava Lava Love. Prima si parlava di Last Night, in realtà la traccia che ci siamo ascoltati si intitola The Grey Lines. Sono sempre loro, Lava Lava Love, con questo loro ultimo lavoro. Tra le altre cose, dovete anche ringraziare chi vi ha curato la copertina in questo caso. Molto bella. Sì, perché è assolutamente particolare, per chi avrà modo di vederla anche su internet all'interno del loro sito, però vogliamo anche conoscere un po' cosa si racchiude in questa copertina. Ma allora, qui la parte copertina... un'altra storia soporifera. No, ma la farò molto breve. Florence mi aveva mandato un quadro in cui mi aveva detto: ah, mi piacerebbe una copertina con una cosa del genere. Io ho preso quel quadro, l'ho girato a questa ragazza che avevo deciso che avrebbe dovuto disegnare la nostra copertina, che è la Serena, Serena Micieli di Brescia, che salutiamo, e le ho detto: riesci a farmi un disegno col tuo stile, però basato un po' su questo quadro? E lei me l'ha fatto. Erano essenzialmente due persone sdraiate in un prato, adesso non mi ricordo. Sì, è la Damo ed Eva, ecco, di Rosario appunto, De Velasco al Prado di Milano. Per le cose intelligenti c'è cioè sempre la Flo. E invece io, che sono quello detto alle cose ignoranti, gli ho detto: fammi questa copertina. Lei me l'ha fatta, ci è piaciuta moltissimo. Poi mi ha detto: ma se ci infilassimo anche degli zombie? Quindi gli ho detto: sul retro, però disegnami degli zombie, così la gente poi l'effetto sorpresa dice davanti: ah, che bella copertina da innamorati, poi dietro: ah, che bella copertina di zombie. E quindi ci ha fatto questa copertina di cui siamo assolutamente fieri, contenti, soddisfatti. L'unica cosa era continuare a dire: le scarpe della tizia, falle rosse. Ma dentro falle bianche, però no, falle rosse anche dentro. Quelle del tipo falle blu, no, nere, nere, no, blu. I capelli della tipa biondi, sì, che potrebbe essere la Flo. Infatti, indovinate chi era che rompeva così le scatole coi colori? Ero io, ovviamente. Quindi... strano, perché sono così. Di solito una donna nel gruppo non si occupa di queste cose, no? No, no, incredibile. No, la cosa divertente è che, vabbè, adesso rovinerò. Non ce ne sono di cose divertenti, Flo. Ah, scusa, beh, la cosa più interessante allora è che all'interno del disco, il disco proprio fisico, il CD, è un cervello. È vero. È un cervello sanguinante, quindi rappresenta proprio la filosofia dello zombie che si nutre di cervelli. Quindi era un po'. E purtroppo non si vede, esatto, ma è coperta dalla, diciamo, dall'etichetta The Prisoner Records, dal simbolo dell'etichetta. Dal simbolo dell'etichetta, però c'era una goccina di sangue a forma di cuore. E per noi quella era proprio la... I Lava Lava Love, se potessero essere rappresentati con un'immagine, sarebbe una goccina di sangue a forma di cuore, secondo me. Poi non so voi cosa ne pensiate. No, secondo noi no. No, però... però è bello, però, è molto bella, sì. E mi piace. La prenderò come mia questa, questa frase. No, no, adesso lo dirò a tutte le interviste. Bene, bene, bene, anche perché è registrata, e ricordiamo ai nostri ascoltatori che questo podcast potrà essere presto disponibile all'interno del nostro sito internet, per cui potete ascoltarvi la bella musica live proposta dai Lava Lava Love e anche le battutone super simpatiche dei ragazzi in questa serata. Esattamente. Dobbiamo anche salutare Alberto Pisco, nostro direttore artistico. Ciao, che Alberto, vi ha voluto stasera, certo, giustamente qua. E salutiamo anche la Rossella, che vedo tutte le mattine, che mi offre gentilmente i giornali quotidiani. Grazie Rossella, anche da parte di Lava Lava Love. Salutiamo anche mia cugina, che è qui a un metro da noi. Certamente. Ciao, qua, salutiamo, sentiamone anche la voce. Vai, vai, vieni davanti al microfono. Ecco qua. Ciao, ciao. Ecco qua. Sono la cugina. Di tutti noi, la cugina di Lava Lava Love. La cugina di Lava Lava Love. In realtà si è acquisita di qua. Esatto. Seconda cugina di tutti Lava Lava Love. Perché vabbè, non andiamo avanti, è uno siparietto un po' patetico. Andiamo. Prego, perfetto. Allora andiamo avanti con la vostra musica dal vivo, allora? Certo. Sì. Cosa c'è di bello? Ma di bello. Sì. Sì. Allora, come dire? Abbiamo deciso che faremo due pezzi. Molto bene. Quindi già lì le nostre capacità tecniche sono tirate al limite. E iniziamo con un pezzo nuovo. Inedito. Che sarà contenuto nel prossimo album, di cui non vi diciamo il titolo dell'album. Ma suonate questo dal vivo? Sì, queste, certo, le facciamo già. Sì. Ok. Sì. Sì, perché le abbiamo già imparate, quindi le possiamo suonare. Si Massimo le ha imparate, le sa bene. It snows in hell, nevica all'inferno. E dopo di questa faremo Winona. Winona, che è uno dei primissimi pezzi che abbiamo fatto. Quindi It snows in hell. Nobody knows. And your new suede shoes don't fit quite well. Snowflakes fall from the mail, and the tears and the melt. Everything is new, you see. Nobody knows. nose and hip, and your new straight shoes don't fit quite well. Believe me, there's always a way out now. Wake up right now. Now wake up right now. Now wake up right now. Bene, adesso facciamo Winona. Un attimo che Florencia deve bere, Sbro deve montare la batteria. Esatto, la valigia deve Vittoria deve tossire. Fare i bagagli. Bene, siamo pronti. Siamo prontissimi. Winona dal nostro primo EP che potete scaricare su lavalavalove.bandcamp.com. This is a high score band going on. I would like to play little songs to girls. We're trying to make them dance and maybe smile, and that's why we play so many songs. Don't say you love me, 'cause I don't wanna be the one hear me sing. So it is, so we hope you'll stay set down, down, watching the crowd and dancing in your mind. You look great, it took so a little time. Don't say you love me, 'cause I don't wanna be the one hear me sing. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, ci siamo ascoltati due canzoni dal vivo di fila. Era per Lava Lava Love, con la presentazione di un brano inedito, non ancora su disco, e poi invece il Winona, la seconda canzone che abbiamo ascoltato, tratto da quello che è stato l'EP che in un certo senso ha aperto la strada ai Lava Lava Love, e che adesso è disponibile anche sul sito di Bandcamp. Esatto, nel nostro sito di Bandcamp. Mm-hmm. Dobbiamo sottolineare una cosa, Flavio, che la cugina li cantava tutti e due. Cugina, la nostra cugina, è una fan. È una fan. Preparatissima. E un'altra cosa da sottolineare, secondo me, Flo, non so se sei d'accordo, soprattutto nel primo pezzo, che era molto folk, a mio parere, arrivavi, assomigliavi, sempre nel dovuto rispetto, occhio, a Natalie Marchand dei Ten House Maniacs. Wow. Te li ricordi quelli là? Beh, mi ricordo, esatto, me li hanno fatti conoscere. Ecco, non me li ricordo proprio tutti, ma una buona parte. Qualcosina, tantissimi, no? Tantissimi, ha fatto tanti dischi interessanti, ma soprattutto all'inizio di carriera, quella tua voce era molto folk, folk americano, parlo mm-hmm. A mio parere, sempre a mio parere, la sento così. Ti ringrazio del paragone, tra l'altro è interessante perché leggendo le recensioni ci sono moltissimi tantissimi paragoni di tante artiste diverse, e una meglio dell'altra, quindi per me insomma no, non posso che essere felice di tutto questo. Io devo dire la verità, cantando in maniera pseudo professionale, diciamo così, da poco, devo ancora un po' trovare la mia identità. Infatti credo di comunque di prestarmi un po', a seconda del genere che facciamo, diciamo della tendenza della canzone, credo di modificare un po' e di adattare quello che è il mio timbro e la mia estensione, la mia vocalità alla canzone. Credo che questo si senta, infatti penso si senta anche nel disco la differenza magari tra Nothing Special, che è un po' più sognante, certo, come ballata, e quella che abbiamo sentito prima, Grey Lines, che è un po' più ruvida, sì, come voce. Quindi ti ringrazio del paragone, insomma sto cercando la mia strada tra virgolette, e mi fa piacere che risulti piacevole l'ascolto applicato anche al disco e in generale ai pezzi che proponiamo, ecco. Sì, l'amalgama è completo praticamente, la tua voce, la voce di Vittorio, le altre due voci qualche volta che arrivano. Secondo me stasera avete fatto un'ottima esibizione live. Ti ringrazio, ti ringrazio. Parere. Bene, allora non solamente di audio stiamo parlando, perché se qualcuno è curioso e ha tempo da investire per guardare su internet, trova anche dei filmati e anche simpatici, come sono i ragazzi questa sera, Lava Lava Love. Allora, in particolare ce n'è uno che è veramente toccante, da quanto emozionante è, ed è all'interno del vostro sito internet anche, ed è il video di Kenosis, che quel pezzo dove c'è un ipotetico corso di chitarra tenuto improbabile da voi. Corso improbabile, ecco, sì, sì. Chitarra e mandolino. Ecco, sì, chitarra e mandolino. Allora, era comunque un'idea assolutamente geniale e originale questa. Come mai avete deciso di improntare così il video? Ma era un'idea di Massimo, no? Ah sì, non mi ricordo, può essere. Ma non ci guardavamo mi malissimo. Sembra di... Stava cercando di capire di chi fosse dopo l'idea. Era in sala prove, dove facevamo le prove prima, che era la White Rabbit di Legnago, che ringraziamo. Mm-hmm. E abbiamo usufruito del loro spazio, non solo per fare le prove, ma anche per girare questo video sul divano della White Rabbit di Legnago. Che ringraziamo. Divano soprattutto. Tanto racconta, Vittorio, questo episodio terribile che ti è successo mentre giravamo. Sì, il video. Tra l'altro a metà video si può notare che sto fuggendo da una cosa. Questa cosa esiste, se ingrandite c'è una specie di zanzara mutante, che era grande come un mio pugno, e mi stava volando incontro. Per cui, e forse chi ha visto anche i cartoni animati di Ben 10 saprà di cosa stiamo parlando. Ci sono le zanzare mutanti in Ben 10, ecco perché mio cugino lo guarda sempre. Non so se esattamente sia su quello, però okay. Diciamo che... Ma noi sappiamo cosa siano i pugni, però abbiamo avuto una bella idea. E guai a chi fa battute, so che la stavate pensando tutti. No, pensavo perché ti picchiassero da piccolo. No, esatto. Io picchiavo da piccolo di solito. Immagino. E ha mantenuto questa tendenza. È il cattivone del gruppo, Massimo. No, sono io. Ah, sei tu il cattivone. Lui è quello che parla poco, ma fa tanto, soprattutto tu male. Hai detto fa tanto così. Male. Esatto. Vito è quello che parla poco, ma fa tanto. Esatto, bronza quarta, no? Esatto, bronza quarta, sì, si dice anche così. Ah, ecco. Allora, un altro pezzo del vostro disco, quello che non avevamo ascoltato prima, ma l'abbiamo citato parecchio, quello dal titolo lungo, lo sì, faccio dire a voi. Che Tomorrow Will Be the Worst Day of My Life, che tra l'altro nella recensione che è uscita ieri è stata definita la canzone più brutta del disco, però noi abbiamo deciso che quella è la recensione scritta peggio degli ultimi 150 anni. No, non anni, è vero, no? Tra l'altro l'ha scritta anche una mia amica, che saluto, Valentina, mi sembra l'abbia scritta lei. Vabbè, non importa. Vabbè, chiunque l'abbia scritta, insomma, però diciamo che a noi le recensioni piacciono sia belle che brutte, e quindi mettiamo questa canzone per dimostrare al mondo che Tomorrow Will Be the Worst Day of My Life non è la canzone più brutta del disco. Anzi, giusto, secondo Florenzia? Me è anche la più Florenzia, bella. Florenzia. Se dici Florenzia un'altra volta. E quindi ascoltiamocela pure. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. And the sun stung your golden Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato anche questo pezzo che assolutamente non è male, quindi la critica forse l'ha stroncato un po' troppo a mio avviso. La critica inteso nella tizia che l'ha criticato, nella ragazza che l'ha criticato, sì, perché poi ha ricevuto anche delle ottime recensioni questo pezzo, è il pezzo preferito di Enver, credo, quindi addirittura. Ma forse ricordo male, probabilmente ricordi male. Quindi anche il titolo che supera il titolo del vostro album dalla lunghezza, quindi sì, ci vorrebbe quasi una copertina di quelle pieghevoli, anzi già ci avete pensato. E supera anche il bordero, tra l'altro, ogni volta dobbiamo compilare. È molto lungo, se effettivamente. Tomorrow will be the worst day of my life. Eccola. Benissimo. Allora, si parlava prima di quelle che sono le vostre, diciamo, band o artisti di riferimento per la vostra musica, ovvero tradotti in termini spiccioli, quelli che sono i vostri tre dischi preferiti di cui non potete fare a meno, compresi gli artisti. Quindi in velocità, visto che il tempo è poco, dobbiamo ascoltare ancora musica. Cosa, chi vi ha influito e quali sono i vostri pezzi preferiti? Vado io, che dico sempre i soliti. Cominciamo, sì, però Massimo, un po' cambio, Massimo, sì. Melancholy and the Infinite Sadness. Bravo. Eccolo. Rubber Soul. Bravo. Ah, non vale. E il Blue Album degli Wizard. Bravo. Ecco, adesso ho pozzato e io dirò bravo ad ogni sua scelta. Allora, io aggiungo Pornography dei Cure. Sì. Mm-hmm. Bravo. Grazie. Poi Harvest di Neil Young. Bravissimo. E come mai Harvest di Torio? Perché hanno deciso tra due o tre, tipo On the Beach, un altro paio, ho scelto uno a caso. Un caso molto grande. E aggiungo Sgt. Pepper's dei Beatles. Molto bravo, molto bravo. Ho preso tutti i dischi. Beh, ma voi andate assieme sull'isola, quindi puoi ascoltarli anche tu. È vero. No, magari se li scambiano anche voi. Adesso vai, Andrea, dai. Sicuramente altri tre. Attenti, perché qua mi sa che di bravo ne dirò gran pochi. È l'ultimo di Justin Bieber? No, quello spero di no. Che non mi ricordo. No, sì, no, allora io direi Revolver dei Beatles, bravo, che è un album che ha dei pezzi che mi piacciono davvero tanto e a cui sono particolarmente affezionato. Un'altra band a cui sono veramente legato, perché uno dei motivi principali per cui ho cominciato a suonare, sono i Led Zeppelin, quindi direi Led Zeppelin 2, sì, che John Bonham è uno dei miei... Bravissimo! Ci sta stupendo però questa sera, no. E poi, siccome mi piace molto anche il funky e le sonorità dei Red Hot, diciamo, dei primi anni, della prima metà degli anni 90, direi Blood Sugar Sex Magik, che a mio avviso è il loro migliore lavoro. Sì, fantastico. Molto, molto bravo. Bravo. Grazie, grazie ragazzi. Anche perché andava molto ancora prima che i Red Hot Chili Pepper si buttassero un po' più verso la parte commerciale. Era un disco assolutamente piacevole da ascoltare. Sì. Allora, Flo, mi rimangono poche scelte. No, beh, avrei detto sicuramente uno qualsiasi dei Beatles, se dovessi scegliere Sgt. Pepper. E poi direi uno qualsiasi dei Queen. Sono indecisa tra A Night at the Opera e A Day at the Races, e direi A Day at the Races. Brava. E poi direi The Moonshine Sessions di Philip Cohen Solal, che credo un disco che conoscano in 50 persone, e un disco che mi ha segnato profondamente nella vita e che conoscerà solo Pelodia, che saluto. Ed è il progetto solista di Philip Cohen Solal, appunto, di Gotham Project, che è una band cui sono molto legata. Ed è un progetto country, e che è un disco incredibile, il disco della mia vita, quindi è fantastico. Lo porterai senza. Poi me lo appunto. Magari, sì, ecco, guarda, finisci, ascoltatelo, perché bello, piangerai tantissimo, te lo assicuro. Perfetto. Brava. Allora, ancora un pezzo live per i Lava Lava Love. Cosa ascoltiamo adesso? Avevamo detto Nothing Special. Sì, quindi Nothing Special. Perfetto. Che è il ballatone del romantico. Tutte le volte che Florenza Davio dice è il ballatone, a me vorrebbe dire la ballatona più che il ballatone. Ma può dire anche il ballatone. Si può dire anche il ballatone. Non lo so, forse facciamo un sondaggio con gli ascoltatori. La ballatona dava più di New York, tipo maratona, però il ballatone. Secondo me il ballatone è più influenza lombarda. Sì, può essere. Non lo so, noi maschile. Non siamo lombardi, vabbè, ti faccio notare. Vabbè. Tipo il macchinone. Vabbè, insomma, è una macchinone. Vedi, è, una, vedi. È una bella ballata, dai. È una bella ballata. Now you're 22. Now you get all the time you need. You had all the love you needed by your side all this time. Now that it's so cold, it's colder now than years ago. It's colder than a planet with no sun. I would tell you something special if I could say something special, but I'm nothing special. There's nothing really special in other's words. I would tell you something true if I could say something true, but I'm nothing but a liar. And there's no truth in this world. Now you're 22, you already got anything you need. You had all the love you needed all this time Now that it's so cold, send you kind and warm words to dry your tears and warm your heart. I would tell you something special if I could say something special, but I'm nothing special. There's nothing really special in others' words. I would tell you something true if I could say something true, but I'm nothing but a liar, and there's no truth in others world. I would tell you something special if I could say something special, but I'm nothing special. There's nothing really special in others' words. I would tell you something true if I could say something true, but I'm nothing but a liar. And there's no truth in this world. Blu Radio Veneto, Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed ecco qua un altro pezzo dal vivo ascoltato per voce e musiche dei Lava Lava Love, che sono qui con noi in questa serata all'interno della programmazione di Blu Radio Veneto, che si chiama appunto Blu Radio Sera, ancora con Maurizio Calzavara e Flavio Bilato. Ancora pochi minuti ci rimangono per ascoltare ancora qualche sonorità dei Lava Lava Love, ma un breve commento su questa canzone va dato. Questo Nothing Special. Sì, un pezzo, una ballata come, o ballatona, come possiamo dire. E una cosa da sottolineare: il giro armonico, l'intreccio, la colorazione che ha dato Vittorio a questo pezzo mentre tu cantavi, Flo, ti ha dato proprio una colorazione particolare, musicalmente parlato. Una bella, altra, potrebbe essere una ballata pop, proprio una ballata proprio costruita dal folk più dal pop, secondo me. Vittorio, cosa pensi? No, è vero, è vero, è vero. E non ho molto da aggiungere. Vabbè, no, da dire anche del banjo, del banjo che c'è nel disco, sì, non, sì, chiaramente sì. Non è stato possibile portare il banjo stasera. Perché c'era Andrea che dava anche lui la sua colorazione. Infatti, no, anche Andrea è molto folk. Molto decisamente nel folk look più che altro. Max. Che pantaloni ha tra l'altro questa sera? No, dei jeans scoloriti provenienti dal collezione autunno-inverno 94. Fantastico. Ma al di là di questo, esatto, il pezzo era molto molto significativo, molto bello. Se tutti danno è una ballata, sì, d'accordo, ma quella l'avete fatta diversa rispetto al disco, anche dal punto di vista proprio strutturale, essendo acustico. Però secondo me anche dal vivo l'ha fatta diversa, decisamente diversa. Come l'ha fatto un pezzo simile dal vivo, con gli strumenti anche elettrici? No, chiaro, dal vivo c'è da dire che la maggior parte dei pezzi sono molto più energici. Io esagero un po' con i volumi, sono, certo, sono più suonati, più metallari, tra virgolette, ok? E Max dà un impulso alla chitarra. Max, io sono il basso, esatto, dal vivo sono il basso perennemente distorto, quindi... Invece, cioè, i pezzi sono nati acustici, quindi in questa colorazione qua un po' più soft ci possiamo sfogare meno, chiaramente. Però così si valorizza di più, appunto, come dicevi, il giro armonico, le melodie vocali, eccetera. Che sono fondamentali con Flow, le melodie vocali. Sì, sì, sì. Infatti qualche pezzo del secondo disco sarebbe carino farlo magari con meno chitarre elettriche, più suonato acustico, con pianoforti, che ne so. Con... Ma nel disco che è già pronto, quando sarà, uscirà, che differenza ci sarà? Le melodie di Flo saranno leggermente diverse, più sostenute, o sempre in questa chiave acustica? No, sarà tutto più estremo anche da questo punto di vista, perché ci sono melodie, cioè pezzi ancora più diversi uno dall'altro. Lo sa già Flo? No, infatti mi stavo preoccupando. Però Vittorio sta chiaramente pensando a Both, come esatto. Ah, è un brano nuovo scritto da Florencia, che ci ha mandato un MP3 tutto a cappella. Sì, perché chiaramente io, essendo ignorante in materia, il musicista di casa mia è Mattias, mio fratello, appunto, non io. Io l'unico strumento che ho a disposizione è la mia voce, e quindi ho fatto una in modo molto, ovviamente, umilmente, e quindi ho cantato al microfono del mio Mac il pezzo, l'ho inviato a Vittorio e lui l'ha arrangiato seguendo, insomma, le direttive che dava la testa più che lo strumento suonato in sé, e quindi è nato un pezzo che è un po' quasi tirando a un dance, a un funk. Quindi Andrea sarà contento, tra l'altro. Quindi una faccia diversa della vostra band. Sì, assolutamente. Parliamo di Both. Guarda, si è appena svegliato Andrea, sì, quindi un attimo che deve riprendersi. Tutankhamon quando si sveglia da stare. Both ha una ritmica che mi fa impazzire. Infatti Max ha trovato un giro di basso un po'... L'ha trovato Vito, sì. Io ci ho messo un mese a impararlo, però... Flavio è una band assolutamente democratica, questa qua. È vitocentrica, ruota intorno a Vittorio. Noi facciamo solo quello che dice lui. No, credo che sia una canzone che rispetto alle altre c'ha un po' più di groove, di ritmo in più, e non so quanto questo si possa anche ritrovare nelle nuove canzoni che comporranno il brano, però senz'altro questo aumenterà il livello di ritmo all'intero nuovo lavoro, ecco. Volevo dire a Sbro che se la smettesse di sbattere le mani sul tavolo sarebbe una buona cosa. Si parlava di ritmo, si notava assolutamente l'emozione, pensavo fosse il terremoto, io l'emozione che aveva Andrea, appunto, parlando di questo, pezzo, che prossimamente, allora, costretto ad ascoltarlo. Speriamo. Costretti proprio. Sì, sì, infatti, forza. Benissimo. Ascolto forzato. Allora, visto che abbiamo ancora pochi minuti per stare insieme, diamo un piccolo spazio, ancora un piccolo spazio al vostro nuovo CD, che poi ricorderemo anche dove si può trovare, quindi è Bench of Love, Songs and Zombies. Questa è la traccia numero 6, questa volta veramente ascoltiamo Last Night, che era stata annunciata prima, eccola qua per voi. Blu Radio Sera. Last night I had a dream. I dreamt that I could fly high anytime I wanted to, anytime. I should have told the truth. If I could only have known the truth. If I could only remember. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questo è The Last Night, ultimo pezzo che ci siamo ascoltati da disco dei Lava Lava Love, protagonisti di questa serata all'interno della programmazione live di Blu Radio Veneto, Blu Radio Sera per l'appunto. Allora, due parole da spendere per questa ultima notte. Come è nata la canzone? Si parla d'amore anche qui? No, qui si parla di sogni. Ecco qua, quindi si ritorna al... Si torna al mondo onirico. Al messaggio di prima che citava Andrea, i peperoni. Esatto, sogno, esatto, peperoni, sì. Di sbro. Sì. E qui non parliamo di sbro. Ma parliamo di sogni. Qui parliamo di sogni, di come... scaturiscano dalla nostra psiche più o meno sana, per la maggior parte delle volte non è sana. Musicalmente ti sembrava un sogno piuttosto agitato, però. Sì, come la maggior parte dei sogni che ci ricordiamo bene. Di solito purtroppo abbiamo la tendenza a ricordare le cose negative. Sì, questo è vero. E purtroppo anche i sogni negativi tendiamo a ricordarli di più. E questo sogno qua comincia con qualcuno che vola, e anche questa è una cosa molto ricorrente, no? Il sogno di cadere, il sogno, qualcuno che, non so se vi è mai capitato di sognare di volare o di... Tutte le notti, bene. Io di cadere nel vuoto. Ecco. Bellissimo, è la cosa che preferisco in assoluto quella. Mi sveglio malissimo, ma facciamo parte del Vittorio. E c'era un periodo in cui sognavo spesso questa cosa di volare, ma nel senso non di cadere, nel senso di volare, ma neanche con un aeroplano. Era a fine anni 80, quando girava, esatto, l'eroina. Esatto, quel periodo fantastico della mia vita. Quindi come dicevano... Chi non vuole, no, l'ilarità sorge spontanea, no? Dicevo che qualcuno diceva appunto, non è questione di paura di volare, la questione è la paura di cadere. Esatto, dicevano, sì, chiaramente. Non i frequent flyer, ma quelli che dell'aereo non ne vogliono proprio sapere. Benissimo, allora siamo stati in questa serata, anzi abbiamo anche sconfinato con i Lava Lava Love per... conoscere a fondo quella che è la loro musica, quello che è il loro ultimo lavoro, si intitola A Bunch of Love Songs and Zombies. Ricordiamo anche dove possono trovare gli ascoltatori questo CD. Lo possono trovare bene nel nostro sito, che è lavalavalove.tumblr, scritto tumblr.com. Tumblr. Tumblr. Vabbè, insomma, dai, la gente che comunque usa internet lo sa. Su Google, nel motore di ricerca, i lava arrivano. Sì, arrivano, in qualche modo arriviamo sempre noi. E poi nei negozi anche, esatto, lo potete acquistare. Fate così, ve lo ascoltate in streaming dal nostro sito, da dove volete, anche se è il sito di Rolling Stone che è in streaming, e poi lo venite a comprare se volete ai nostri concerti, così vi conosciamo anche, vediamo che facce avete, se siete belli o se siete brutti. Mm-hmm. E lo vendiamo anche a quelli brutti comunque. Sì, lo vendiamo anche a quelli brutti, soprattutto a quelli brutti, ne vendiamo due. E poi se andate invece nel nostro sito e lo acquistate in formato digitale nella pagina Bandcamp, lì il 50% di tutto quello che versate, visto che è quasi a offerta libera, cioè c'è un minimo, però poi uno può offrire anche 700 euro per comprare il nostro disco, e secondo me li merita, e metà di tutto quello che versate verrà devoluto in beneficenza ad un'associazione di Verona che si occupa di bambini malati. È l'Abeo, l'associazione del bambino emopatico oncologico. Esatto, quindi fate anche una bella cosa, quindi al giorno d'oggi non è necessario avere il disco fisico, potete comprarlo digitalmente nella nostra pagina Bandcamp. Ho finito. Benissimo, allora noi ringraziamo i Lava Lava Love di essere stati con noi per presentarci questo loro lavoro molto, molto interessante, e vi auguro un felice rientro in quel di Verona, ma immagino non ci lasciate, no? Riprendi la chitarra, Massimo. No, ma la suonano solo loro due, perché a me piace che la suonino solo loro due questa canzone. Ah, okay, e io perfetto. Suono il pathos. Ah, okay. Okay. Strumento. Esatto. Va quindi... bene. Allora, ancora grazie Lava Lava Love, grazie di essere grazie stati a voi. Con noi. Grazie. E allora noi adesso vi lasciamo i microfoni aperti, io e Maurizio ce ne andiamo, e quindi quando avete finito spegnete le luci. Ok, chiudiamo, chiudiamo la porta. Okay. Allora, sì. Ci tiriamo dietro il cancello. Fate piano, sì. Va bene. Fate piano anche col cancello che fa male. Vabbè, a tirarselo dietro, vuol dire. Vabbè, allora da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavala, al solito grande e caloroso ciao, buona serata a tutti. Vi lasciamo con un ultimo pezzo di Lava Lava Love. Grazie ancora, ragazzi. Grazie a voi. Grazie a voi. Morning Dew. One, two, three. To you, morning dew, morning eyes are always blue, and your eyes can see nothing at all. You can see me when I cry, when I try so hard to find something new, something that makes me feel different. It's up to you, a cup of coffee, a cup of fucking useless words. There is no one but me in this room. You know there's nothing, I see nothing, I feel nothing, believe in nothing. You know nothing is worse than living without you. Turn on the TV, turn on the washing machine, turn on the dishwasher, turn on the oven, turn on the water heater, turn on the stove, turn on the boiler, turn on the light. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.